ad alta voce. Sandro Lombardi legge Casa d'altri di Silvio D'Arzo. Quinta puntata. La sfortuna era che intanto eravamo arrivati davanti alla siepe di casa sua. E tutto quel che potevo aspettarmi da una vecchia signora del genere era che lei mi facesse un saluto con tutte le regole e poi mi lasciasse lì, sulla strada. Così io vi ringrazio, disse lei, come m'ero previsto. E scusatemi del disturbo e di tutto. E buonanotte anche a voi. Buonanotte, neanche per scherzo, dissi io un po' allegramente. E del disturbo non vi scuso per niente. Troppo comodo, no? Sono venuto a pigliare la mia lettera. La mia lettera, Zelinda. Mi spiego. Perché la lettera era già mia, se volete saperlo. Né più né meno che i miei libri e il mio tavolo. E anche un avvocato di città o il pretore mi darebbero tutte le ragioni del mondo. Lei mi stava a guardare, sempre un po' a testa bassa, a due passi e nemmeno da me. Avete ragione, si decise alla fine, guardando subito a terra però. Avete ragione, lo so, ma anch'io credo di avere ragione. Bene, io penso per 3 o 4 giorni a una cosa e nient'altro. E poi me ne vado giù fino a valle a comperarmi il sale, la carta e l'inchiostro. E poi vi mando la lettera con dentro tutta quanta la cosa. E così tutto è finito. Poi però, quando vado al canale, ci ripenso sopra un bel po'. E vedo che la lettera non può proprio servirmi per niente. E così allora ritorno in parrocchia e mi riprendo la lettera. E la prima cosa che faccio è quella di buttarla nell'acqua. Ma cosa avete pensato? Che cosa? Adesso è notte, Zelinda, e non c'è nessun altro che noi. Tutti e due abbiamo già un piede di là. E così certe cose si possono anche dire, mi sembra. Indugiò 2 secondi. Che cosa ho pensato al canale? Dopo voi vi arrabbiate, io lo so. Alzai appena appena le spalle. Neanche voi ci credete, Zelinda. Ho pensato, lei disse, che certe cose voi non potete capirle. Voi e neanche gli altri, però. Solo che gli altri non ci si arrabbiano mai. E anche questo può essere. Chi vi dice di no? Cercai di sorridere ancora. Certe cose si arriva a capirle e certe altre mai e mai, in nessun caso. Né più né meno che un medico che per anni ha studiato di tutto e perfino il latino, ma poi arriva la volta che anche lui non può fare niente altro che starsene lì sulla seggiola a guardare il malato che va. Eppure, conclusi un po' soddisfatto di quel mio paragone da sagra, è bene andare dal medico. Tutti vanno a farsi vedere dal medico. Io no, disse lei con dolcezza. Io non ci sono mai andata. Anche quando il mulo dei Carbonai mi calciò qui alla schiena, io non sono andata dal medico. Ci ho messo su delle frasche d'ortica. Non era una ragione, si intende, ma era tutto quel che passava il convento e bisognava a ogni modo pigliare il buono e il cattivo. Però, ribattei, la lettera l'avete pur scritta e quella sera siete pure venuta da me, dal dottore. E dite quel che volete, Zelinda, ma è segno che le frasche questa volta non siete riuscita a trovarle. Bene, io avevo intenzione di dirvi soltanto questo, che in due si cerca meglio. Ecco tutto. Questa volta era chiaro che dovevo aver fatto centro, perché la vecchia non rispose parola. Adesso, sulla strada di monte, per le siepi e le scarpate d'intorno e i calanchi ed i pascoli, era tutto silenzio e già dormivano gli uccelli e le rane ed ogni altra creatura. E infatti, dopo un po', si decise. Tutte le mattine alzarsi alle 5 e andare giù in fondo valle per pigliare gli stracci e fermarsi a mezzogiorno un momento a mangiare olio e pane sopra l'erba d'un fosso e poi venire su fino a monte a pigliar la carriola e andarsene al canale a lavare fino alle 6, fino alle 7 e il lunedì fino alle 9 di sera. E poi dopo caricare la carriola e tornare su a casa, appena in tempo per mangiare ancora olio e pane e anche un po' di radicchi. E poi andare a dormire. Respirò un po' a fatica. Si capiva che ormai doveva provare una gran pena di sé. E il giorno dopo fare lo stesso. E anche l'altro giorno. E tutti i giorni del mondo. Perché io questo lo so. Questo lo so bene, tutti i giorni del mondo, e su questo neanche voi potete dire di no. Si interruppe per respirare di nuovo, perché mai aveva parlato tanto così in vita sua, e io guardavo e guardavo e non dicevo parola. Io ho una capra che porto sempre con me, e la mia vita è quella che fa lei. Tale e quale. Viene in fondo alla valle, torna su a mezzogiorno, si ferma davanti al fosso con me e poi la porto al canale e quando vado a dormire va a dormire anche lei. E anche nel mangiare non c'è gran differenza, perché lei mangia dell'erba e io radicchi e insalata, e la differenza sta solo nel pane. E poi a momenti io non potrò mangiare più neanche quello. Come me, come me. Ecco che cosa faccio io. Una vita da capra. Una vita da capra e nient'altro. Erano amare parole e mi parve che qualcosa dovessi ben dirlo a ogni modo. E mi alzai e mi avvicinai di due passi. Era questo, Zelinda, che avevate messo nella lettera a voi? No, disse lei, e la cosa mi stupì la sua parte. No, questo chiunque lo sa, chiunque passa lo vede, e neanche c'è bisogno di dirlo. Oltretutto, cominciavo a deluderla. Giusto. Non era questo che avete scritto? E cos'era? Ormai che mi avete dato il dito, Zelinda, datemi anche la mano, che io son qui per allungarvi la mia. No, no, disse lei un po' indecisa. Voi non potete capire. Io sono stata tra le serve di Maria. Sono andata fino a Loreto in pellegrinaggio. E tutto a piedi fin là. Ho fatto quel che Dio dice di fare. E nessuno può dir niente di me. Di grosso non ho mai fatto niente. E io pensavo che adesso un piacere Dio potrebbe anche farmelo, perché io non gli ho mai chiesto niente, non l'ho mai disturbato tanto così in 63 anni a momenti, e non l'ho mai avuta con lui, mai una volta. Un piacere potrebbe anche farmelo, ecco. E si fermò un'altra volta, perché ormai era proprio commossa, e io continuavo a guardarla e non dicevo parola. Per questo io sono venuta da voi quella sera a domandarvi se anche da voi, dalla Chiesa, qualche volta non si bada alla regola. E la storia del matrimonio era solo un'astuzia. E per tutta la notte mi ci son vergognata. Si interruppe di nuovo una volta. Io mi guardavo le scarpe e tacevo. Trascorse un minuto e anche due. Allora, volete sapere quello che c'era scritto? Mi chiese. Mi limitai a far di sì con la testa. Va bene, decise. E io ve lo dico anche. Ma allora voi vi voltate da un'altra parte e non mi state a guardare più in faccia. Ed io feci anche questo. Va sicuro che mi voltai verso il muro come quando qualcuno si sveste, e neppure un secondo pensai che vedendoci un tale avrebbe potuto anche riderci sopra. A far suo, ad ogni modo. Nella lettera c'era scritto che io capivo benissimo quello che dite voi preti, perché guai se non fosse così, e il mondo chissà dove andrebbe. Questo io lo capivo da me, ma siccome il mio era un caso speciale. No, no, non state a voltare la faccia, me l'avete promesso. Siccome il mio era proprio un caso speciale, tutto diverso dagli altri, e so che sarà sempre così, e ogni giorno che passa anche peggio, perché questo lo so, questo io proprio lo so, la sola cosa che io so proprio bene. Non voltate la faccia, guardate sempre di là per piacere. Allora, senza fare dispetto a nessuno, io chiedevo, no, ma io me l'immagino già quel che voi rispondete. Senza fare dispetto a nessuno? Ecco, nella lettera c'era scritto, se in qualche caso speciale, tutto diverso dagli altri, senza fare dispetto a nessuno, qualcuno potesse avere il permesso di finire un po' prima. Mi voltai senza aver ben capito. Anche uccidersi, sì, spiegò lei con una tranquillità da bambina e si mise a guardarsi gli zoccoli. Tutto questo mi prese così all'improvviso che sul momento non mi venne parola. Nessuna. Ma poi, no, non fu neanche così. Alla bocca mi salirono parole e parole e raccomandazioni e consigli e per carità e cosa dire e prediche e pagine intere e tutto quel che volete. Tutte cose d'altri, però. Cose antiche e per di più dette mille e una volta. Di mio, non una mezza parola. E lì invece ci voleva qualcosa di nuovo e di mio, e tutto il resto era meno che niente. Ecco, disse lei dopo un po', lo sapevo che avreste fatto così. E la cosa più brutta era che lei stette ancora in attesa di qualcosa come un minuto e anche più. Stava lì e continuava a sperare. Lo sapevo che avreste fatto così, ripeté con voce appena diversa. Io l'ho sempre saputo. Fin dal primo momento l'ho detto. Zelinda, cominciai io, ma così goffamente da provare vergogna di tutte le parole del mondo. Perché allora l'avete voluto sapere? Disse lei con un po' di rimprovero. Voi l'avete voluto sapere e adesso, ecco, ve ne state così. E si mosse e sparì dentro casa. E io rimasi lì, sulla strada di monte. Vengono delle idee certe volte. Mi guardai un po' d'intorno. Stava per venire la morta stagione. gli sterpi secchi, le passere uccise dal freddo, la notte che arriva alle sei, i fossi ghiacciati, i vecchi che se ne muoiono in fila e la melide li cuce dentro il lenzuolo e io li porto al cimitero di monte e i bambini che per l'intera stagione se ne stanno dentro le stalle a scaldarsi col fiato dei muli. Un inverno di 5 o 6 mesi. E lei cosa avrebbe fatto? La vecchia. Nelle ossa sentivo l'inverno vicino. Guardai un momento le nuvole, che adesso erano più grandi di un prato, e poi mi avviai alla parrocchia. Le nuvole mi venivano dietro, sempre dietro, come se qualcosa sapessero. Vengono delle idee certe volte. Ma che altro potevo fare? Mi dite? A dicembre da noi i sentieri sono duri dal freddo e il rumore di un passo si sente quasi da giù, a fondo valle. Con la testa appoggiata alla finestra che dà verso i monti, io lo aspettavo da un'ora e anche più. Ormai l'aria cominciava a farsi color neve sporca e le case all'intorno erano più livide e fredde del sasso. Per le strade non c'era nessuno. Un bambino dalla gola coperta di stracci schiacciava il naso contro il vetro di casa. Una ghiaia picchiò contro il vetro. Solo allora mi scossi. Le sei vecchie di Bobbio, mi avvisò ansimando il ragazzo dal basso. Le ho accompagnate giù fin dalla torba. Fra neanche mezz'ora son qui. Era vero. Guardando verso la torba, proprio in mezzo al sentiero brinato, mi pareva in realtà che ci fosse qualcosa di nero. Il ragazzo salì. Non che fosse un ragazzo prodigio, o recitasse poesie, o roba simile, ma a suo modo qualche cosa doveva pure capire, perché entrando mi diede un'occhiata come si guarda un malato inguaribile. Era proprio a disagio, il ragazzo. E per di più, avanzò in punta di piedi. Non dicemmo parola. Anche i vetri erano color neve sporca. Il bambino dal collo fasciato era ancora là, sempre al posto di prima. Da una finestra uscì un filo di fumo. «Devo andare a vestirmi?» domandò a bassa voce il ragazzo. «Non ancora», dissi io. «È ancora presto. State un poco in silenzio. La melide l'ha già pettinata e lavata», mi informò con un po' di ritegno. Io guardavo giù dalla strada, sempre verso la torba di monte. In mezzo a tutto quel bianco e quel freddo avanzava qualcosa di nero. «Adesso ormai sarà lì che cuce il lenzuolo», continuò dopo un po'. «È ancora presto», risposi a fatica. «E poi bisogna aspettare le vecchie che piangono. Hanno accettato a 350? Sì, a 350. Più mangiare qualcosa e dormire qui questa notte. Hanno fatto 7 chilometri, dicono. È giusto. La stanza era ormai tutta in penombra e a 2 passi da me il ragazzo era solo una macchia più scura. «Vado a prendere il lume?» mi chiese. «Non importa, lascia perdere», dissi. Stemmo in silenzio, così, 4 o 5 minuti. Poi mi fece pietà e oltretutto volevo star solo. «Bene, credo che adesso sia ora», dissi io con stanchezza. «Prepara cotta, aspersorio e ogni cosa e poi vatti a vestire». Il ragazzo si mosse in punta di piedi, ma sull'uscio si volse. «Le sei vecchie di Bobbio m'hanno fatto anche capire che vorrebbero qualcosa di caldo. Le strade ormai gelano», dicono. E ci dissi con la testa. Era giusto. Anche questo era giusto. Il ragazzo andò via. Per 3 mesi ero andato ogni sera al canale e ogni sera l'avevo trovata laggiù, coi suoi stracci. La sua capra frugava qua e là. Mi fermavo lì, sopra l'argine, sempre come per caso, e mai più di un minuto. Appena il tempo che lei s'accorgesse o mostrasse d'accorgersi. E poi indietro ancora, in parrocchia. Mai una volta in 3 mesi che m'abbia fatto il più piccolo segno o abbia alzato anche solo la testa. Lei c'era ancora, ecco tutto, e io dall'argine vedevo che c'era, ed il resto non voleva dir niente. E tutti e due sapevamo benissimo che non ci saremmo parlati mai più, neanche più salutati incontrandoci, ma anche questo era meno di niente. E adesso era finita. Qualcosa era successo una volta e adesso era tutto finito. Non provavo neppure dolore, però, né rimorso o malinconia o roba simile. Mi sentivo solo dentro un gran vuoto, come se ormai non potesse capitarmi più niente. Niente, fino alla fine dei secoli. Me ne giravo su e giù per la stanza, dove per la prima volta lei mi aveva così scioccamente parlato. Spostavo un libro, lo spostavo di nuovo, o battevo su un vetro, così. E adesso anche un ragazzo avrebbe potuto condurmi per mano. Un'assurda vecchia, un assurdo prete. Tutta un'assurda storia da un soldo. Giù dal vicolo venne un rumore. Le 6 vecchie di Bobbio arrivavano allora. Le siepi erano tutte gelate. Le 6 vecchie battevano i piedi dal freddo. Da un'altra casa uscì un filo di fumo. Il ragazzo salì e bussò all'uscio. Reverendo, mi avvertì senza entrare. Corro a suonare la campana. Amelide ha finito in questo momento. Adesso vengo, dissi io. C'era freddo. Dicembre è freddo da noi. E adesso eccomi qua. La vecchia è morta. La Melide è morta. Il ragazzo porta a monte le capre. Solo una volta ho rivisto il curato di Braino. Lui correva giù a valle, io venivo su per la strada dei pascoli. Novità su a Montelice? Mi ha gridato ridendo dal basso. Ho allargato le braccia. NN. Era troppo ingrassato per dirgliele. Sempre ridendo, ha ripreso la corsa. Davvero era troppo ingrassato. C'è quassù una cert'ora. I calanchi ed i boschi e i sentieri ed i prati dei pascoli si fanno color ruggine vecchia e poi viola e poi blu. Nel primo buio le donne se ne stanno a soffiare sui fornelli, chine sopra il gradino di casa, e i campanacci di bronzo arrivano chiari lì giù fino a Borgo. Le capre s'affacciano agli usci con degli occhi che sembrano i nostri. Allora mi viene sempre di più da pensare che è ormai ora di preparare le valigie per me e senza chiasso partir verso casa. Credo d'avere anche il biglietto. Tutto questo è piuttosto monotono, no? Sandro Lombardi ha letto Casa d'altri di Silvio D'Arzo, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.